se sarai tu ad aprire. Come basta poco dopo troppo riascoltare il canto. Tira fuori in me quello che ho lasciato dentro. Ho lasciato riposare l'infettiva gelosia, che tu con un sorriso che non pensa hai risvegliato in me. Troppo tempo senza mai sentire mai. Lo stomaco che chiude, che non chiede nulla a parte te. E ritorno ad amare con te. E mi sento sincera. Per come sei, e fino all'ultimo momento penserò che sia per sempre. Stammi dentro, non sentirti stretto mai.